Ragazzi, eccoci qui. Dopo qualche secondo di pausa, insomma, avevamo musica nella capoccia, rotta di collo. Torno io, torna Sandrino di nuovo, redivivo dopo una rubrica di musica gabber, spero che tutti l'abbiano apprezzata. Insomma, dopo questa rubrica andremo a trattare un altro genere molto ascoltato, un genere che è stato storico per la nostra generazione. Quindi con questa puntata inizieremo il genere heavy metal e spiegheremo qualcosuccia al riguardo. Insomma, non è una rubrica proprio per metallari accaniti, ma è d'ascolto un po' per chi vuole saperne di più del genere. Allora, iniziamo praticamente andando indietro nel 1968. Allora, nel 68 l'hard rock già si faceva sentire da un po' con gruppi tipo Led Zeppelin, Deep Purple, che già dicevano la loro. Diciamo che proprio in quel momento nella città di Birmingham si andò a sovrapporre al termine hard rock il termine heavy metal. I primi in assoluto che furono identificati anche come maggiori esponenti all'epoca di questo genere furono i Black Sabbath. Allora, perché heavy metal? Perché praticamente l'amplificazione dei strumenti, le distorsioni della chitarra, la distorsione della voce, tutto veniva portato all'esasperazione. Ecco perché a un certo punto questo termine heavy metal, metallo pesante, con oltretutto tematiche differenti da prima. I Black Sabbath iniziano infatti con delle tematiche prettamente occulte, e questo è stato anche un segno di demarcazione dell'epoca. Maggiore esponente dei Black Sabbath tutti lo conosciamo nella figura di Ozzy Osbourne, diciamo il primo cantante dei Black Sabbath, corrisponde anche insomma ai primi lavori di un certo spessore. E andiamo adesso ad esaminare dei Black Sabbath per farci un'idea, diciamo il loro pezzo più storico estrapolato dall'album Paranoid si chiama omonimamente Paranoid esso stesso. I am Allora ragazzi, torniamo dopo l'ascolto di Paranoid the Black Sabbath, mettiamo un altro pezzone dello stesso gruppo per capire bene, estraiamo dallo stesso album un altro successo gigantesco dei Black Sabbath, questa si chiama Iron Man. Thank you. Ok ragazzi, tornati con Sandrino di nuovo. Questa era Iron Man dei Black Sabbath, tratta dall'album Paranoid. Allora ragazzi, dobbiamo sapere che nel 68 i Black Sabbath iniziarono, ma non furono gli unici. Nel 69 un altro gruppo, sempre di Birmingham, patria del genere, iniziò, e questi furono i Judas Priest. Allora, dei Judas Priest andiamo ad ascoltare uno dei principali lavori, uno dei principali hit, chiamata Breaking the Law. Eccoci di nuovo ragazzi in studio, tornati dopo Breaking the Law, tratta dall'album British Steel. Allora, andiamo a estrarre invece da un altro album chiamato Turbo e un'altra traccione dei Judas Priest, questa si chiama Turbo Lover. Feel me. Allora ragazzi, eccoci di nuovo, questa era Turbo Lover dei Judas Priest, avevamo lasciato momentaneamente i Black Sabbath, torniamo nel loro ambito perché sappiamo che non solo Ozzy Osbourne è stato cantante dei Black Sabbath, ma un altro gran cantante dell'epoca, a nome Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, dopo essere uscito dai Black Sabbath, fondò un proprio gruppo chiamato Dio, che fece un grandissimo successo. Vado a estrarre adesso uno dei maggiori, si chiama Rainbow in the Dark. Insomma, com'era? Niente male, Rainbow in the Dark, tratta dall'album Holy Diver. Come da Holy Diver, sempre per i Dio, traggo adesso un altro successone. Questo è Stand Up and Shout. Mm-hmm. E questo era, ragazzi, Stand Up Shout dei Dio, uno spettacolo. Allora, eravamo nel 1983 all'epoca con l'album Holy Diver, ma ora trattiamo un altro gruppo che insomma da molti è stato conosciuto poi come un prosecutore del genere classic metal. Hanno una storia molto variopinta, io vi dico, nascevano nel 1975 in quel di Londra. E i maggiori successi li possiamo attribuire sotto l'opera del cantante, il famoso cantante Bruce Dickinson. Allora, con Bruce Dickinson ci andiamo ad ascoltare una traccia che è veramente storica, veramente uno spettacolo. Questa è Hallowed Be Thy Name. We'll be right back. Allora, com'era? Questa era l'Hobby the Name degli Iron Maiden. Questa fa parte dell'album The Number of the Beast del 1982. Allora, per capire un attimino il lavoro che hanno fatto i Maiden nel tempo, ci spostiamo parecchio avanti, quasi 20 anni dopo. Vi faccio sentire anche qualcosa dell'album Brave New World, questo è del 2000. Allora ragazzi, andiamo adesso ad ascoltare The Wicker Man. Yeah. Allora ragazzi, vi è piaciuta questa era The Wicker Man, nonostante insomma il 25esimo lavoro degli Iron Maiden, anche questa è una gran bella canzone. Allora, per oggi abbiamo finito questa prima parte di presentazione del genere classic metal. Per la prossima volta non vi posso dire cosa ci sarà perché come al solito sarà a sorpresa. Andiamo praticamente avanti con l'ordine cronologico dei generi metal per un bel po', quindi preparatevi. Spero vi sia piaciuto, un bacio, un abbraccio a tutti da Sandrino e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao! Ed eccoci in voce qui a Radio Risacca, questa era Metal Zone, una rubrica atipica, particolare, che ripercorre tutta la storia di un genere musicale che è il metal. E grazie Sandrino e ringraziamo anche tutte le rubriche precedenti, redazionali, le trasmissioni Bimbi dal Basso, la trasmissione punk, e ci accingiamo qui nella palude, sono le 20:27, abbiamo 150 milioni di ascoltatori in linea, salutiamo tutti, mandiamo un abbraccio caloroso. E di questo bellissimo sabato soleggiato, senza pioggia, senza vento, un sabato col mare calmo, un sabato da ricordare, andiamo a presentare la prossima ed ultima rubrica di questa puntata, che è Techno Stories, che ormai giunge alla terza edizione, la terza puntata, a cura della nostra amatissima Yolanda di Ostia. E come Radio Risacca vi mandiamo un abbraccio e buon ascolto. Eccoci, ciao a tutte e a tutti, e stiamo iniziando questa terza puntata della rubrica Tecno e volevo iniziare questa rubrica con dove stanno le mie, la mia musica? La cerchiamo? Non lo so perché okay. Non è il mio... C'avevo la pennetta scaricata. Tecno, eccola qua, perfetto, questa. Grazie. Dalla regia mi aiutano in questa tecnologia che mi fotte sempre. Tecno, io sono solo tecno, senza la logia. E eccoci qua con il nostro tecnico dell'audio.